16 e 17 aprile 1975, Claudio Varalli e Giannino Zibecchi. Due giorni rappresentano con drammaticità l'efferatezza fascista e poliziesca dietro cui si celavano connivenze pericolose. Il 16 e il 17 aprile 1975. E ci sono due nomi, due volti, che invece ricordano la dura opposizione contro quella violenza imposta nella società. Claudio Varalli e Giannino Zibecchi. Varalli, 17 anni, militante del Movimento Lavoratori per il Socialismo, venne ucciso il 16 aprile dal neofascista Antonio Bragnon, con il colpo di pistola alla nuca. Gli estremisti di destra avevano aggredito Varalli e un altro gruppo di suoi compagni in seguito ad un corteo per il diritto alla casa. Il giorno seguente, gruppi e partiti della sinistra antagonista indicano una manifestazione di protesta per l'assassinio di Varalli, che presto degenera in scontri violenti. L'epilogo è drammatico, con una camionetta dei carabinieri che investe Giannino Zibecchi, 27 anni, insegnante e membro del coordinamento dei comitati antifascisti. Mentre Bragnon, nonostante la condanna in primo grado a 10 anni di reclusione, abbia alla fine scontato solo 8 mesi, per Zibecchi non è mai stato nemmeno individuato alcun colpevole.